reportage. Immigrazione, frontiera sud. A Catania, il coordinamento anticrisi di Sergio Nava. Buongiorno da Catania, dove ci troviamo per quest'ultimo reportage della serie sulle frontiere d'Europa. Mi trovo in questo momento al porto di Catania. È mercoledì mattina e proprio in questi istanti è arrivata la nave P61, nave maltese dell'operazione Triton, che sta portando 230 immigrati, prevalentemente subsahariani, recuperati in due distinte operazioni in mare. Sulla banchina sono presenti ufficiali di polizia, della Guardia Costiera, della Croce Rossa, di Save the Children, dell'UNICEF, che stanno aspettando di poter identificare i migranti, prestare i primi soccorsi e poi procedere alla registrazione. In questo reportage da Catania vi racconteremo com'è stata questa estate sul fronte sud delle nostre frontiere e vi racconteremo anche cosa sta facendo l'Europa per meglio coordinare le operazioni in materia di immigrazione. Africa occidentale pare siano tutti dell'Africa occidentale, esclama uno dei debriefers che gestiscono l'identificazione dei migranti al porto. I nuovi arrivati vengono fatti attendere alcune decine di minuti sull'imbarcazione. Prima salgono a bordo i medici per verificare eventuali emergenze sanitarie, dopodiché si procede allo sbarco. Scendono lentamente incolonnati e in piccoli gruppi e ordinatissimi. Primo check medico con la Croce Rossa, poi la consegna dei generi di prima necessità, infine l'identificazione e registrazione. Mio Rapic, debriefer croato di Frontex, al lavoro in supporto alle autorità italiane, nell'intervista ai profughi ci spiega che il gruppo si trovava in cattive condizioni, infreddoliti, in mare da due giorni, tremavano ancora per la fitta pioggia che si è abbattuta su di loro appena giunti in porto. I migranti provenivano dalla Libia, in maggioranza erano nigeriani, ma con loro anche i cittadini di Mali, Gambia e regione subsahariana. I 230 hanno già la destinazione pronta, a gruppi di 50 viaggeranno verso i centri di accoglienza del centro nord Italia e restanti 30 si fermeranno in Campania. Senza dare troppo nell'occhio, la polizia ed Europol individuano i sospetti scafisti e li staccano dal gruppo. Sono anche loro di colore. Solo un rapido lavoro di intelligence ha permesso di isolarli e metterli in stato di fermo. Per noi è tempo di spostarci nel centro di Catania, dove ha sede la EU Regional Task Force, agenzia interforza europea costituita all'inizio dell'estate. Una dozzina di ufficiali delle varie agenzie comunitarie coinvolte nella crisi migratoria lavorano in una stanza messa a disposizione delle autorità italiane all'interno di un commissariato di polizia. Con loro sono presenti i rappresentanti della stessa polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza. Due le attività principali: lo scambio quotidiano di informazioni e il supporto operativo in occasione degli sbarchi, attività quest'ultima che abbiamo testimoniato in prima persona al porto. E all'interno della EU Regional Task Force è presente anche IASO, Agenzia Europea per l'Asilo. Il suo portavoce Jean-Pierre Schembri ci anticipa che già la prossima settimana dovrebbero partire i primi ricollocamenti in Europa, decisi con molta difficoltà a Bruxelles, per un totale di 160.000 migranti. Poi ci spiega il ruolo di IASO a Catania. Il nostro ruolo è per aiutare le autorità italiane per fare due cose, possiamo dire tre. Primo, la registrazione. Il secondo è la rilocazione agli altri paesi dell'Unione Europea e il terzo abbiamo anche un ruolo sul Dublino, il ritorno dei migranti secondo le regole di Dublino. Ci sono effettivamente problemi in Italia come in Grecia? In passato ci sono stati problemi di una scarsa registrazione dei migranti? Puoi dire che è una realtà? Forse che se non c'era al 100% registrazione, ma voglio dire anche che i numeri sono grandi, numeri. Se vedi i numeri dell'asilo, quest'anno già abbiamo un record e siamo ancora in settembre. C'è ora la questione importante degli hotspot. L'Europa li vuole entro novembre operativi. Voi avete una stima di quanti potrebbero essere effettivamente operativi in Europa e in Italia a novembre? L'Italia ne prevede 6 di hotspot. Questo non posso specificare a questo punto qua. Noi abbiamo già persone in Italia che stanno lavorando, ci abbiamo persone in Agrigento, ci abbiamo persone in Lampedusa oggi, non sono ufficialmente operativi, ma noi siamo pronti. Tra le agenzie europee presenti nella task force di Catania c'è anche UNAV4MED, che la prossima settimana lancerà la fase 2 nel Mediterraneo per fermare i presunti trafficanti in acque internazionali. Il capitano Luca Milella, ufficiale di collegamento per UNAV4MED a Catania, traccia un primo bilancio della cooperazione tra agenzie comunitarie. La collaborazione fino ad ora, appunto durante la prima fase, è stata fondamentale perché grazie grazie alla copresenza di agenzie come ASO, Europol e soprattutto Frontex, è stato possibile sul tavolo di questa task force avere subito una veloce e chiara situazione di quelli che sono in tempo reale i flussi e i movimenti dei gruppi migratori, quindi anche cosa c'è dietro a livello di attività di sfruttamento di questo fenomeno, che ovviamente a noi interessa in termini di contrasto. In stretto contatto con la task force e la missione Triton nel Mar Mediterraneo, che conta, oltre alle più note navi di pattugliamento, anche su aerei di ricognizione. In quest'ultimo caso gli equipaggi cambiano settimanalmente. A giovedì pomeriggio, secondo quanto riferitoci dal capitano francese Didier Le Carlier, in 30 ore di volo nel quadrante a sud-est di Malta gli avvistamenti di imbarcazioni di migranti sono stati pari a zero, forse anche per colpa del maltempo che ha imperversato nella zona. Dall'Europa ci spostiamo ora sul fronte italiano. Col prefetto di Catania, Maria Guia Federico, abbiamo tracciato un bilancio di questa estate per quanto riguarda gli sbarchi nella provincia. A tutt'oggi abbiamo avuto quasi 8.000 sbarchi, l'anno scorso in totale entro la fine dell'anno quasi 10.000, quindi più o meno diciamo che il trend è stato mantenuto. Quali nazionalità sono maggioritarie? Arrivano soprattutto immigrati subsahariani qui a Catania? Arrivano immigrati subsahariani, ma arrivano anche i siriani, molti di più l'anno scorso, sono stati quasi 3.100, quest'anno solo 448, quindi quest'anno abbiamo avuto un incremento di immigrati subsahariani in effetti. C'è il tema rimpatri a livello europeo, questo insieme alle ricollocazioni migranti sta diventando un tema fondamentale. E ci sono novità che state applicando in via sperimentale già dagli ultimi sbarchi. Esattamente cosa fate? Nel momento in cui il migrante ci fa sapere che non ha nessuna intenzione di fare richiesta di asilo, ma che è venuto in Italia e che vuole andare in Europa semplicemente per trovare un lavoro, quindi lo definiamo non più come richiedente asilo ma come immigrato economico, viene ovviamente allontanato dal resto dei richiedenti asilo e viene inviato ai CIE, centri di identificazione ed espulsione, per essere poi successivamente rimpatriato. E il prefetto risponde così a chi in Europa, e sono molti anche a livello ufficiale, avanza dubbi sulla capacità delle nostre autorità di registrare la totalità o quasi dei migranti. Non vogliamo contrastare la grande Europa, ma dal nostro osservatorio catanese noi li identifichiamo e li fotosegnaliamo tutti, abbiamo delle percentuali altissime. Però se qualcuno si rifiuta, tecnicamente voi potete obbligarlo? Tecnicamente noi non possiamo obbligarlo, però abbiamo, come dire, un'attività anche di persuasione che le forze dell'ordine fanno, in modo da fargli comprendere attraverso i mediatori culturali la necessità di effettuare questa operazione. L'emergenza migranti in Sicilia è monitorata anche da organizzazioni esterne alla sfera europea o italiana. Una di queste è l'Agenzia ONU per i rifugiati, che si occupa soprattutto di fornire informazioni ai potenziali richiedenti asilo in merito ai loro diritti. Medea Savari ne è la portavoce a Catania. I nostri dati parlano chiarissimo. L'85% delle persone che arrivano via mare scappano da paesi in guerra, tipicamente la Siria ovviamente al primo posto, ma poi anche Afghanistan, Eritrea, Somalia. In Italia appunto gli arrivi sono un po' meno, e quello che notiamo è comunque sì, è gente che proviene da diversissimi paesi, ma comunque tutti con alle spalle delle storie molto molto difficili, che se non è per motivi di violenza generalizzata nel paese, spesso hanno forse anche delle ragioni individuali per le quali scappano. Quello anche che è preoccupante per noi è soprattutto tutto il modo in cui viaggiano, perché oltre forse a scappare da situazioni insostenibili nei propri paesi, poi durante il viaggio vengono veramente sfruttati, ingannati, devono pagare cifre altissime, spesso anche poi vittime di violenze. Sempre di più sentiamo racconti di donne vittime di violenze, questo ci preoccupa molto. E dunque direi che sì, le storie che raccogliamo, le testimonianze mostrano veramente un aggravarsi anche del proprio del viaggio. Vi soddisfano gli standard con cui l'Italia accoglie i migranti, soprattutto i rifugiati? Sì, l'Italia sta facendo e ha fatto molto. Penso principalmente al soccorso in mare. L'Italia è veramente stata quella che, dopo la tragedia di Lampedusa, esattamente quasi 2 anni fa, è stata la prima a veramente mettere in atto una risposta umanitaria con Mare Nostrum, che poi si è trasformata in Triton. Poi a livello dell'accoglienza l'Italia comunque ha un sistema che anche noi notiamo grandi sforzi. sia delle prefetture che dell'autorità. Ora ovviamente gli standard di accoglienza vanno sempre migliorati e monitorati, però generalmente direi che l'Italia sta facendo molto. E un'altra organizzazione fortemente coinvolta nell'emergenza migratoria è la Croce Rossa. Le magliette di decine di volontari sono chiaramente visibili non appena una nave di profughi approda in porto. A loro il compito di compiere la prima visita medica ai migranti, prestando se necessario le cure del caso. Ma quali sono normalmente le loro condizioni fisiche? Alfio Ferrara, della Croce Rossa. Chi arriva è comunque in estrema difficoltà perché affronta giorni di viaggio. Per fortuna non sono i giorni di viaggio che affrontavano in passato, quando arrivavano direttamente sulle nostre coste, ma sicuramente non stiamo lì a ragionare su quanti giorni o quante notti si sta senza acqua, schiacciati gli uni sugli altri, in mezzo agli escrementi propri delle persone che ti stanno accanto. In che condizioni arrivano mediamente? Ma sicuramente abbiamo a che fare con donne in stato di gravidanza estremamente provate, bambini più che provati fisicamente, provati psicologicamente, adulti infreddoliti, adulti che non arrivano in buone condizioni, alcuni di loro anche proprio provati dalla fisicità del contatto, dello stare gli uni accanto agli altri, numeri e spazi che sono assolutamente senza senso. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.